It's the 105 Zoo. Allora, adesso io raccontare mia storia, eh? Ascoltare. Io vengo da Ghana. Vendere collana. Mangiare banana. Tutta settimana. Io vengo da Ghana. Vendere collana. Mangiare banana. Only on 105. Io volevo solo sapere. Tu contenta? Io vengo da Ghana. Tu contenta? Vendere collana. Tu contenta? Mangiare banana. Io volevo solo sapere. Tu contenta? Io vengo da Ghana. Tu contenta? Vendere collana. Tu contenta? Mangiare banana. Tu contenta? Io volevo solo sapere. Tu contenta? Lo Zoo di 105.